quasi andiamo. No, basta che c'è il treno e poi torno in macchina. Perché io sapevo che facevano stanno andare qua, perché può andare giù in macchina. No, ma poi in sera così poi cambierà, Boh, a me sinceramente ho visto che Berto era la parte della DJ, si arriva la DJ, si deve passare la DJ.